Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Già gremito il nostro studio con ospiti, avremo anche protagonisti per le dirette telefoniche nell'imprevedibile martedì dei 103.1, ma ora con il Last Minute apriamo una parentesi in scena, perché esattamente da questa sera fino al 25 febbraio sarà al Teatro Arena del Sole un altro appuntamento nell'ambito di Focus Lavoro. Sapete, diritto il lavoro, lo sfruttamento, liberismo sfrenato, mancanza di un appoggio importante, di una sensibilità, ne parliamo costantemente. Arriva anche una denuncia grazie a Emilia Romagna Teatri con una rassegna quanto mai interessante. Abbiamo già parlato del Capitale, la lettura di Kepler 452, dopodiché abbiamo parlato delle serve con l'interpretazione, il riadattamento in scena del lavoro di Jean Genet, abbiamo portato Scandisk dal lavoro di Vitaliano Trevisan, e ora è il momento di Grazia, e sarà dal 13 al 25 febbraio in sala Thierry Salmon, e dopo il successo di un'interpretazione che abbiamo portato anche in scena di Cassandra, l'attrice performer Roberta Lidia De Stefano, che ho contattato anche per dare un'anticipazione a questi incontri, ha portato questo lavoro con attenzione al lavoro e le differenze, il gender gap per quanto riguarda il salario, il diritto al lavoro, le donne migranti, insomma di tutto, che porti una completezza in questa osservazione importante nell'ambito di Focus Lavoro. Ricordo che essendo fino al 25 febbraio tutto ciò verrà riportato in maniera estesa anche nella rubrica del venerdì dedicata al teatro. Ma iniziamo appunto con questa pillola di approfondimento iniziale del Last Minute, per poi riprenderla, ribadisco, in maniera estesa nella giornata di venerdì. Parla esattamente di grazia, cioè di restituire la grazia a quelle che sono le voci inascoltate, a cui diciamo un po' il sistema capitalista, la società resta indifferente in qualche modo. E restituire la grazia è come un po' restituire la voce, dignità, soprattutto in questo caso alle donne, alle braccianti agricole che hanno delle storie sommerse, e le facciamo riemergere in qualche modo. E infatti è un continuo, si può dire, oltre che le problematiche lavorative ci sono anche problematiche attinenti all'identità, al genere, ai soprusi, alla fisicità. Sì. Purtroppo gli abusi sul lavoro riguardano, diciamo, intersezionalmente non soltanto il mondo del caporalato, del patronato, appunto, di cui nello specifico si entrerà in questo spettacolo, ma trasversalmente toccheremo anche altri ambiti. Cioè, chiaramente io sono un'attrice e anche nel nostro mondo ci sono degli abusi di potere e di vario genere, insomma, sia dal punto di vista banalmente della questione economica, no? Delle paghe, le donne sono pagate notoriamente meno degli uomini, hanno ruoli meno apicali, meno responsabilità, pur facendo a volte anche l'ombra degli uomini in qualche modo, e anche dal punto di vista fisico si sfiorerà sicuramente la questione un po' dell'economia, del corpo femminile, anche dell'attrice, legata anche un po' al sex work, no? Cioè, nel senso che molte volte a noi attrici è capitato di dover fare dei provini o comunque sostenere delle cose con dei registi o con delle persone, appunto, registi piuttosto che, diciamo, teatrali, cinematografici, dipende, che facciano delle richieste che sono, come dire, al di là di quello che sarebbe consentito dalla professione. Ecco. Gravity has no control on me. Teatro Arena del Sole, ovviamente via dell'Indipendenza a Bologna, in sala Salmon, martedì, cioè oggi alle ore 19, al mercoledì sarà alle 21.30, giovedì, venerdì ore 19, sabato 21.30 e domenica alle ore 18. Certo che tutte le indicazioni che potete fruire dal Breakfast Club sono verbo vola nell'immediato, però date attenzione. E oltretutto il sito di ERT, Emilia Romagna Teatro, vi darà una possibilità più comoda per avere il consulto e l'agenda a proposito di questi spettacoli. Anche www.radiocittafugico.it, la paginetta Facebook del Breakfast Club. Di Grazia, con la regia di Alexander Colì, e in scena Roberta Lidia De Stefano, che ho contattato. Una realtà che porta un impegno anche fisico per dare denuncia a quello che sta capitando nel mondo del lavoro, su un versante di donne impegnate e allo stesso tempo purtroppo con delle palesi difficoltà. Ho parlato di contenuto insieme a Roberta, ora parleremo anche di quello che è un aspetto interpretativo. E a questo punto, dopo aver capito argomentazione, sacrosanta denuncia, contenuti, parliamo anche di un aspetto scenografico e oltretutto anche di colonna sonora. Ci puoi dire qualcosa di più, senza svelare ovviamente troppo? Sì, allora intanto la scenografia adesso non la svelo, anche perché è già stata abbastanza svelata, ma comunque siamo in un mondo rurale, in un contesto di un sud che può essere il nostro meridione, appunto bagnato dal Mediterraneo, ma anche sudafricano, un sud della Spagna, un'Andalusia, cioè tutti quei posti dove si consumano questo tipo di modalità di lavoro, no? Nei confronti delle donne e non solo. Siamo dentro ad un mondo che è legato all'agricoltura, per cui terra, montagna, legno, tutto l'immaginario della materia, tutto così un po' caldo, un po' legnoso, concorre a creare una materia, come dire, quasi una catasta, non so come dire, una catasta molto fragile, pronta a rompersi, un po' come la voce di queste donne. C'è un po' tutto, concettualmente tutto molto collegato anche alla drammaturgia, in questa fragilità, insomma, che vogliamo raccontare io e Alexandro Colcoli, che poi è con me coautore e co-ideatore del progetto. Dal punto di vista delle musiche c'è un lavoro, diciamo, di ricerca abbastanza lungo che è stato fatto. Si passa da qualcosa di più lirico, di più, diciamo, dei canti popolari resi un po' con quasi operettistica, ecco, fino ad arrivare ai giorni nostri, quindi va un immaginario un po' più tecno, più contemporaneo. Ecco, cerchiamo di fare questo viaggio con delle stazioni di questo personaggio che si chiama Rosetta, che faccia come una sorta di metamorfosi, se vuoi, negativo rispetto a quello che le succede nel suo percorso di iniziazione, di formazione, ecco, perché è quasi un po' un romanzo di iniziazione questo percorso. Lei è inconsapevole di quello che le succederà uscita da casa. Notevole e meritoria iniziativa nell'ambito del Focus Lavoro. Già spettacoli sono stati presentati, da Kepler 452, La lettura del capitale, Le serve di Jean Genet, portato in scena una conseguenzialità cruenta a quello che è un capitalismo e un liberismo sfrenato, L'aspetto moderno contemporaneo da Vitaliano Trevisan con la regia di Jacopo Squizzato per Scandisc. Ora Di Grazia, un'attenzione al femminile per il mondo del lavoro. Emilia Romagna Teatri, Teatro Arena del Sole, è dal 13 al 25 febbraio. Oggi nel Last Minute, venerdì, ci sarà questa conversazione di cui avete sentito alcuni brani in maniera più estesa all'interno della rubrica In Scena.